I just like the sound of it. Questa canzone è per Mary. Forse è un nuovo umore. Abbiamo scritto parole magnifiche per ore e ore, guardandoci nel cuore. Siamo come due fuochi che non aspettano altro che ardere insieme, collidere. Siamo come due chimere che si uniscono in questo cuore e nel tuo, e fanno l'amore anche a distanza. Non so, sarà questa stanza piena di poesia e arte che condiscono la tua storia. A parte te, non conosco nessuna come te. Vorrei scrivere queste cose e farlo con amore, perché sei tutto ora per me. Non so come fare a comporre una canzone che abbia una melodia sempre più bella, e così sia, sia sapore del mare che ritorna dalle parole per baciare la tua bocca così eterna che per me musa. Sei come l'ispirazione di Dante e Beatrice, sei come la fenice che risorge in me, un fuoco che ho dentro e non so perché. Siamo come la notte che schiude le porte, siamo come quando vibriamo di notte, siamo come quel cuore che batte, siamo onnipotenza allo stato dell'emergenza. Siamo come guardandoci nell'animo scopriamo che siamo il talamo perfetto di un amore. Amore che hai per me, io per te. Sei la mia coccinella, baby, non dimenticarlo. Sei la mia coccinella, la mia musa perfetta. Cerchiamo di metterci d'accordo in fretta, perché questo animo non sa aspettare. Ma t'aspetterò 100.000 giorni se vorrai, lontano dal tuo talamo, immerso nei miei guai, per le strade di questa vita che sono sempre senza una fine. Una partita unica da vivere con te, una partita mai finita. Ho cercato l'amore in ogni dove, l'ho trovato forse in te, oh cuore mio. Dimmi perché t'amo così arde, potente, così forte, che le quiescenze qui mi fanno mezzo veggente. Siamo come l'amore che si cerca per ore, un Facebook che trema davanti al nostro cuore. Siamo quell'accettata infinita di pagine di lirica. Dovrebbero fare il Facebook dei poeti per noi due. Te musa è la mia ispiratrice. Sarò per te un pittore, uno scultore, un poeta, come